Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento anche per questo fine settimana con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto nuovamente con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di un argomento che, ahimè, in tanti anni, negli anni, ha toccato, credo, la gran parte della popolazione, cioè il giocare in borsa, l'investire con tutte le varie tipologie poi di risparmio che le banche negli anni ci hanno presentato. Perché c'è un'indagine interessante. Sì Francesco, abbiamo avuto... modo più volte di parlare di quello che è successo ai risparmiatori, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo. In realtà diciamo che i risparmiatori italiani non stanno vivendo un buon periodo da parecchio tempo. Gli ultimi casi che abbiamo vissuto, clamorosi, in Veneto, sono stati appunto i casi di Veneto Banca, della Popolare di Vicenza, però di recente abbiamo parlato anche durante il tuo programma di altri investimenti, per esempio quelli postali, tipo il fondo immobiliari Obelisco, IRS, o addirittura i buoni fruttiferi, che insomma inizialmente, quando c'era ancora la lira, dovevano fruttare tantissimi soldi, invece dopo la fine chi li aveva acquistati si è ritrovato un po' con un pugno di mosche in mano. Insomma, diciamo, non è proprio il periodo adatto per i risparmiatori e per gli investimenti. Certo, scusami se ti interrompo, anche perché quando uno pensava di comprare le azioni, per esempio, di Veneto Banca e di Popolare Vicenza, si diceva investi sulle banche che tanto sei sicuro le banche non falliscono. Poi ci sono state tutta una serie di cambiamenti e l'impossibilità poi di vendere le stesse azioni. Sì, ti dirò di più Francesco, al di là appunto della banca, la cosa da aggiungere è che la gente si fidava della banca veneta, perché comunque si sa che insomma la nomea del Veneto, locomotiva, motore dell'economia italiana, insomma faceva pensare che anche le proprie banche fossero insomma sicure e tranquille. Invece abbiamo visto purtroppo che fine hanno fatto. Noi come ADICO stiamo seguendo tantissime persone, abbiamo parlato anche di questo, moltissimi anziani che hanno investito tutti tanti risparmi perché ci credevano, adesso si sono trovati veramente con nulla in banca, con perdite del 90-95%. E in effetti questa situazione, secondo una recente indagine a Ipsos, ha fatto sì che insomma gli italiani a poco stiano perdendo fiducia negli investimenti. Infatti, e questa indagine rivela un dato che ci lascia un po' perplessi, ovvero che 2 italiani su 3 preferiscono tenere liquidi i propri risparmi, quindi preferiscono non investire, preferiscono tenerli sotto il materasso oppure tenerli in un conto corrente che non frutta nulla ma che non provoca rischi. Ecco, quindi la prima conseguenza di tutto quello che sta succedendo in questo periodo, quello che sta succedendo da tempo, è quello che a poco gli italiani, che sono formichine, questo l'abbiamo sempre detto, comunque gli italiani sono dei risparmiatori, però ciò che emerge dall'indagine è che risparmiano ma non investono. L'indagine rivela che il 30% addirittura dei risparmi degli italiani, che corrisponde a circa 1.300 miliardi, resta così proprio sotto il materasso, il cosiddetto materasso, insomma, oppure all'interno di un conto corrente che, come avevo detto, non può non fruttare niente. In questo periodo, come abbiamo visto, il risparmiatore ha perso fiducia decisamente nei confronti di chi propone appunto fondi di investimento o investimenti insomma di ogni tipo. Infatti, secondo sempre questa ricerca, il 66% del campione ritiene che gli strumenti di tutela siano inefficaci, e ciò significa che fondamentalmente chi vuole investire e sa che nel momento in cui ci fossero delle problematiche, le tutele per potersi salvare sarebbero veramente poche. L'abbiamo visto in questo periodo, come appunto il risparmiatore ha avuto veramente pochi mezzi per difendersi di fronte a certi investimenti andati molto male. Poi c'è un altro dato che riteniamo abbastanza emblematico, ovvero che il 36% di chi investe ritiene di essere abbastanza preparato sull'investimento che deve affrontare, però il 64% brancola completamente nel buio, e questo l'abbiamo visto chiaramente, perché ho parlato ad esempio del fondo Obelisco l'altra volta durante la tua puntata, quello sì. È un fondo rischioso, però le persone che l'hanno acquistato, molte persone che hanno acquistato quote di questo fondo, non erano state messe al corrente del rischio che stavano andando ad affrontare. Però possiamo passare anche appunto alle azioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Sappiamo benissimo che in un certo periodo i funzionari, pur probabilmente sapendo della situazione di crisi della propria banca, invece spingevano per l'acquisto di queste azioni da parte dei propri clienti. Insomma, è chiaro che uno dei problemi più grandi è che gran parte dei risparmiatori che investono in realtà non sarebbero preparati negli investimenti, quindi si affidano totalmente a funzionari o esperti che evidentemente in questo periodo non sono stati totalmente onesti con loro, fondamentalmente. Poi la ricerca evidenzia anche altri dati che riteniamo interessanti, che abbiamo potuto riscontrare anche noi nella nostra quotidianità. Rimane il fatto appunto che l'italiano resta un risparmiatore, l'ho detto prima, infatti ancora il 60% dei cittadini tiene le proprie ricchezze come congelate, anche al costo di non farle fruttare, diciamo prima il materasso, anche il conto in banca che frutta poco o niente. E quindi siamo in un periodo in cui stanno calando decisamente i possessori di certificati di deposito o di obbligazioni, chi acquista fondi pensione o assicurazioni sulla vita, chi punta sui libretti di risparmio, su buoni postali, fondi di investimento, ecco, tutte queste appunto queste possibilità di investimento sono in calo perché il risparmiatore non si fida più, preferisce, ripeto, tenersi i soldi a casa piuttosto che andare ad investire. Esatto, cresce la liquidità in generale italiana, ma l'investimento cala. Sì, però Francesco, ci rendiamo conto che ciò sta succedendo perché evidentemente anche il sistema è un sistema che non funziona. Uh-huh. Noi tante volte sentiamo dei commenti, per esempio su chi ha investito i 100, 200 mila euro o su Veneto Banca o addirittura su fondi di investimento di altro tipo, e la classica critica è che arriva magari da qualcuno che non ha investito è: ha perso tutto, beh, evidentemente se l'è cercato. Invece noi non riteniamo che sia così, perché gli investimenti appunto fanno parte del mondo del risparmio, dovrebbero essere tutelati, dovremmo essere in un settore il più trasparente possibile, e invece ci siamo resi conto che appunto non ci sono le tutele per i risparmiatori. Perciò aspettiamoci che a poco ci saranno sempre meno investimenti e sempre più soldi sotto il materasso. Ecco, per qualsiasi dubbio, magari avete investito dei soldi e ve ne ritrovate meno della metà, insomma, potete chiedere anche l'aiuto dell'Adico. www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito da vedere. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.